terzo anello ad alta voce, Lolita di Vladimir Nabokov. Lolita disse che le sarebbe piaciuto mettersi il costume e passare il resto del pomeriggio in piscina. Era una giornata magnifica. La trovai, finalmente, al centro di una terrazza col prato all'inglese. Era corsa fuori prima che io fossi pronto. Oh, Lolita! Stava giocando con un dannatissimo cane, non con me. Io volevo solo vedere dov'era Lo. Non potevo nuotare col cuore in quello stato, ma a chi importava? E lei era lì, e io ero lì, con l'accappatoio. E così smisi di chiamare. Ma d'un tratto, qualcosa nell'arabesco dei suoi movimenti, mentre si lanciava di qua e di là col suo due pezzi rosso asteco, mi colpì. Nel suo ruzzare c'era un che di esageratamente allegro, di quasi esaltato. Uno dei bagnanti s'era allontanato dalla piscina e, seminascosto dall'ombra ocellata degli alberi, se ne stava immobile, stringendo le estremità dell'asciugamano che aveva intorno al collo e seguendo Lolita con occhi d'ambra. E mentre guardavo la sua ovale faccia castana, capii che lo avevo riconosciuto grazie al riflesso in lui dell'espressione di mia figlia, la stessa smorfia di beatitudine, ma resa orrenda dalla sua virilità. E sapevo anche che la bambina, la mia bambina, sapeva che lui la guardava, godeva della lussuria del suo sguardo e stava dando spettacolo. Lo spettacolo delle proprie capriole e della propria gioia gongolante, l'abietta, adorata, sgualdrina. Lolita si tese verso la palla, la mancò, ricadde sulla schiena, le giovani gambe oscene che pedalavano pazzamente nell'aria. Percepivo da dov'ero il muschio della sua eccitazione e poi vidi, pietrificato da una sorta di sacro disgusto, che l'uomo chiudeva gli occhi e metteva nudo il suo piccolo, orribilmente piccolo, regolare filare di denti, mentre si appoggiava a un albero tra le cui foglie tremolava una moltitudine di priapi maculati. Immediatamente dopo ebbe luogo una prodigiosa metamorfosi. L'uomo non era più un satiro, ma un cugino svizzero molto amabile e sciocco, quel Gustav Trapp, più di una volta menzionato, che usava a neutralizzare le proprie gozzoviglie, beveva birra con latte, il bravo porco, con sessioni di sollevamento pesi. Quel Trapp mi notò da lontano e, sfregandosi l'asciugamano sulla nuca, tornò con passo falsamente disinvolto alla piscina e, come se il sole fosse uscito dal gioco, Lo si afflosciò e si mise lentamente in piedi, ignorando la palla che il terrier le metteva davanti. Chi può sapere quali crepacuori provochiamo in un cane interrompendo un gioco? Cominciai a dire qualcosa, poi mi sedetti sull'erba con un mostruoso dolore nel petto e vomitai un torrente di verdi e di marroni che non ricordavo affatto di aver mangiato. Vidi gli occhi di Lolita e sembravano più calcolatori che spaventati. La udii dire a una signora gentile che suo padre aveva uno dei suoi attacchi. Thank you. bungalow di due stanze che avevamo riservato al Silver Spark Court di Elphinstone apparteneva, scoprimmo, al genere tronchi di pino laccati di marrone, che tanto piaceva a Lolita ai tempi del nostro spensierato primo viaggio. Oh, com'erano cambiate le cose adesso! Non mi riferisco a Trapp o ai Trapp. Dopotutto, sì, insomma, dopotutto, signori, stava diventando abbondantemente palese che tutti quei detective identici su automobili prismaticamente cangianti erano frutto della mia mania di persecuzioni, visioni ricorrenti, basate sulla coincidenza e sulla somiglianza casuale. Soyons logique! Chiocciò la parte gradassa e gallica del mio cervello, la quale si accinse a sgominare l'idea che un commesso viaggiatore o un gangster da commedia coi suoi scagnozzi avesse perso la testa per Lolita e mi perseguitasse e si facesse beffe di me e in altri modi sguaiati approfittasse dei miei strani rapporti con la legge. Ricordo che fugavo il panico canticchiando tra me. Ricordo che elaborai persino una spiegazione della telefonata da Bursley. Ma se anche riuscivo a scacciare il pensiero di Trapp, come avevo accantonato quello delle mie convulsioni sul prato di Champion, non potevo fare altrettanto con l'angoscia che mi dava di sapere Lolita, irraggiungibile e adorata, e in modo così allettante e tormentoso, proprio alla vigilia di una nuova era, nella quale i miei alambicchi mi dicevano che avrebbe dovuto cessare di essere una ninfetta, cessare di torturarmi. Intanto, a Elphinstone, mi era stata amorevolmente apprestata una preoccupazione aggiuntiva, abominevole. Nell'ultimo tratto, 300 chilometri montuosi non contaminati da sbirri grigio fumo o da zanni zigzaganti, Lolita, immusolita, non aprì bocca. Una volta entrata nel bungalow, si sedette al tavolo da gioco, seppellì il viso nella piega del gomito e disse di sentirsi malissimo. Tutta una finta, pensai, una finta, di sicuro. Per evitare le mie carezze, ero riarso di passione, ma quando tentai di coccolarla, lei si mise a piagnucolare in un modo insolitamente desolato. Lolita, malata, Lolita, morente. La sua pelle bruciava, le misurai la febbre per via orale, poi cercai una formula che, per fortuna, avevo scarabocchiato su un taccuino e dopo aver laboriosamente trasformato i gradi Fahrenheit, per me inintellegibili, negli intimi centigradi della mia infanzia, scoprii che aveva 40,4, il che, se non altro, spiegava le sue condizioni. Le piccole ninfe isteriche, lo sapevo, possono farsi salire la temperatura a livelli incredibili, addirittura fino a superare la cifra fatale. E le avrei dato un sorso di vin brûlé e due aspirine per poi farle passare la febbre a suon di baci, se dopo aver esaminato la sua incantevole ugola, una delle gemme del suo corpo, non mi fossi accorto che era di un rosso fiammante. La spogliai. Il suo alito era dolce e amaro. La sua rosa bruna sapeva di sangue. Tremava dalla testa ai piedi. Lamentava una dolorosa rigidità alle vertebre superiori. E io, come avrebbe fatto qualsiasi genitore americano, pensai alla poliomielite. Rinunciando a ogni speranza di un amplesso, la avvolsi in un plaid e in braccio la portai in macchina. L'ospedale di Elphinstone, nonostante la capienza limitata, era quanto di più moderno si potesse immaginare. Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're back, so don't explain. Quiet, don't explain. What is there to gain? Skip that lipstick, don't explain. You know that I love you, and what loving does. All my thoughts are of you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong don't matter when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain, my life's yours of love, don't explain. I cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong don't matter when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain, my life, yours, love, don't explain. Delle 8 visite che le feci, solo l'ultima resta nitidamente scolpita nella mia memoria. Era stata una vera impresa andare da lei, perché mi sentivo tutto scavato dall'infezione che ormai si era messa all'opera anche su di me. Nessuno potrà mai sapere che sforzo fu portarle quel mazzo di fiori, quel fardello d'amore, quei libri che ero andato a comprare a 90 chilometri di distanza. Mentre salivo, barcollando, fino alla porta della camera privata di mia figlia, $13 al giorno, Mary Lore, la giovane carognesca infermiera a mezzo tempo che nutriva per me un'esplicita antipatia, emerse con il vassoio della colazione consumata, lo sbatté con un rapido acciottolio su una sedia del corridoio ed eretano scodinzolante si infilò di nuovo nella stanza, probabilmente per avvertire la povera piccola Dolores che quel vecchio tiranno di suo padre si avvicinava furtivamente su suole di para con libri e bouquet, quest'ultimo composto di fiori di campo e bellissime foglie raccolti all'alba con le mie stesse mani guantate su un passo di montagna. Dormì appena quella fatale settimana. La nutrivano bene, la mia Carmencita? Pigramente lanciai un'occhiata al vassoio. Su un piatto macchiato di tuorlo c'era una busta spiegazzata. Si capiva da un lato strappato che aveva contenuto qualcosa, ma sopra non c'era nessun indirizzo. «Dolores!» disse Mary Lore, entrando con me, oltre me, attraverso di me la pingue puttana, e poi, mettendosi a piegare molto in fretta una coperta di flanella bianca, «Dolores, tuo papà pensa che le lettere del mio ragazzo sono per te, ma lui scrive a me!» dando dei colpetti compiaciuti alla piccola croce dorata che aveva sul petto. e mio papà sa parlare francese bene quanto il tuo. Uscì dalla stanza. Dolores, così rosea e fulva, labbra dipinte di fresco, capelli pettinati fino a luccicare, braccia nude distese sul copriletto lindo, sorrideva con radiosa innocenza a me o a nulla. Sul comodino vicino a un tovagliolo di carta e a una matita bruciava nel sole il suo anello di topazio. «Che orridi fiori da funerale!» disse. «Grazie lo stesso! Ti spiacerebbe eliminare il francese? Irrita tutti!» Col solito passo fulmineo tornò la frolla, giovane donnaccia puzzolente di urina e di aglio, con il Desert News. La sua bella paziente lo accolse con entusiasmo, ignorando i volumi sontuosamente illustrati che le avevo portato io. «Est-ce que tu ne m'aimes plus? Ma Carmen non mi aveva mai amato.» In quel momento capii che mai il mio amore aveva avuto meno speranze, e capii anche che le due ragazze erano due cospiratrici che complottavano in basco o in zenfiriano contro il mio amore senza speranza. Dirò di più. Lolita faceva il doppio gioco, perché ingannava anche la sentimentale Mary, alla quale aveva detto, immagino, che voleva abitare con lo zio giovane e giocherellone e non con me, che ero crudele e melanconico. Mary doveva pensare che il professor Humbertoldi, quel padre da commedia, ostacolasse l'amore tra Dolores e il sostituto del padre, il paffuto Romeo. Eri davvero piuttosto lardoso, sai, Rom? Nonostante tutta la tua neve e i tuoi elisir. Avevo mal di gola. Rimasi alla finestra, deglutendo e fissando le montagne, la romantica rupe che svettava alta nel sorridente cielo congiurato. «Carmen mia», dissi, la chiamavo così qualche volta, «appena ti alzerai, lasceremo questa città rauca e infiammata». «Tra parentesi, voglio tutti i miei vestiti», disse la gitaniglia, tirando sulle ginocchia e voltando la pagina del giornale. «Ah, perché non c'è davvero ragione di stare qui», continuai. «Non c'è ragione di stare in nessun posto», disse Lolita. Thank you. Il mattino dopo avevo i brividi e bevevo e morivo nel letto che lei aveva usato solo per pochi minuti. E date le circostanze che si allargavano in cerchio, riuscii soltanto a mandarle le due valigie tramite il moroso della vedova, un camionista robusto e gentile. Mi raffigurai Lo che mostrava i suoi tesori a Mary. Ah sì, sicuramente deliravo un po'. Il giorno dopo ero ancora una vibrazione più che un solido, giacché quando guardai il prato dalla finestra del bagno vidi la bella giovane bicicletta di Dolly sul suo supporto, la graziosa ruota anteriore che guardava lontano da me, come faceva sempre, e un passero appollaiato sul sellino. Ma era la bicicletta della padrona, e con un debole sorriso, scuotendo la mia povera testa al pensiero di quelle tenere fantasticherie, tornai barcollando a letto e giacqui tranquillo come un santo. Il mattino dopo la febbre se n'era andata, e anche se ero flaccido come un rospo, indossai la vestaglia viola sopra il pigiama giallo gran turco e mi avviai verso il telefono dell'ufficio. Andava tutto benissimo. Una voce squillante mi informò che sì, andava tutto benissimo. Mia figlia se n'era andata il giorno prima verso le 2. Suo zio, il signor Gustave, era andato a prenderla con un cucciolo di cocker e un sorriso per tutti e una Cadillac nera. E aveva pagato il conto di Dolly in contanti, lasciando detto di non preoccuparmi, di stare al calduccio. Loro andavano al ranch del nonno, come d'accordo. Elphinstone era, e spero lo sia ancora, una cittadina graziosissima. Si dispiegava come una maquette, con i lindi alberi di ovatta verde e le case col tetto rosso sul pavimento della valle. Ah sì, credo di aver già accennato alla sua scuola modello, e al tempio, e agli spaziosi solati rettangolari, alcuni dei quali, curiosamente, erano solo pascoli poco convenzionali, con un mulo o un unicorno che brucava nella giovane nebbia mattutina di luglio. Che bel divertimento! A una brusca curva gemente di ghiaia, urtai di striscio una macchina parcheggiata, ma dissi a me stesso, teleologicamente e telepaticamente, sperai, al suo proprietario gesticolante, che sarei tornato dopo. Indirizzo Bird School, Bird, New Bird. Il giro mi teneva vivo il cuore, ma mi obnubiliava il cervello, e dopo qualche eclissi e qualche lapsus da sequenza onirica, mi trovai all'accettazione, dove cercai di picchiare il medico e ruggii contro la gente nascosta sotto le sedie e chiesi sbraitando di Mary, che per fortuna non c'era. E poi un'infermiera scarna e accigliata mi porse 7 libri stupendi, stupendi, e il plaid scozzese squisitamente piegato, e pretese una ricevuta. E nel silenzio improvviso avvertì la presenza di un poliziotto nell'ingresso, al quale il mio collega automobilista mi stava indicando, e firmai remissivo la ricevuta eminentemente simbolica, consegnando così la mia Lolita a tutti quegli scimmioni. Ma che altro potevo fare? Un unico, crudo pensiero si profilò nella mia mente. La libertà. Per il momento è tutto. Una sola mossa falsa. E mi avrebbero costretto a spiegare una vita di delitti. Così finsi di riprendermi da un momento di confusione. All'automobilista pagai la somma che gli sembrò adeguata. All'ospedale, in generale, chiesi scusa con una riverenza così ampia che per poco non mi mandò a gambe all'aria. E aggiunsi, ad ogni buon conto, che non andavo particolarmente d'accordo col resto del clan Humbert. A me stesso bisbigliai che avevo ancora la pistola ed ero ancora un uomo libero, libero di rintracciare la fuggitiva, libero di uccidere mio fratello! If I walk in the pathway of joy.